agosto è un incanto di più. È tornato l'agosto, torna presto anche tu. Ogni strada è un romanzo che abbiamo scritto noi. Una storia qualunque, tutta nostra, lo sai. Vorrei che il mio canto arrivasse da te e in un magico volo ti portasse da me. E per me ogni pietra un ricordo di te. È tornato l'agosto, torna presto da me. Devo dirti ti amo, resta qui, qui con me. Non so stare lontano, io non ho che te. Un'ombra solitaria, silente, se ne va. Io cammino nel buio, nella grande città, nascosto tra la gente, non so cosa farò. Il mio cuore non sente, dove sei? Non lo so, d'improvviso una luce, non mi sbaglio sei tu, è tornato l'agonia.